Ed ora cominciamo il capitolo quinto dal Vangelo di San Matteo. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Iddio. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mettendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così han perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere, ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io son venuto non per abolire, ma per compiere, poiché io vi dico in verità che finché non son passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà, che tutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà insegnato così agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro al suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, e quivi ti ricordi il tuo fratello che ha qualche cosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e va prima a riconciliarti col tuo fratello, e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice e il giudice in mano delle guardie e tu sii cacciato in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo quattrino. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato nell'intero tuo corpo nella geenna. E se la tua man destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché val meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella geenna. fu detto chiunque ripudia sua moglie le dia atto di divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Voi avete udito pure che fu detto agli antichi, non ispergiurare, ma attienti al Signore coi tuoi giuramenti. Ma io vi dico, del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero, ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché di più vien dal maligno. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate al malvagio, anzi se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra, e da chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciali anche il mantello, e se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due, da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figlioli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste.